Collettivo Lesbico Femminista Connettive presenta. Just a kiss, just a kiss. Il terzo orgasmo. Facciamo tutte e tre insieme. Il terzo orgasmo. E ora l'abbiamo fatto, quindi... Just a smile, just a smile. Hold me captive, just a while. Times Square 2003. Jenna Jameson, l'attrice di film porno più pagata del mondo, campeggia su un enorme cartellone pubblicitario. La sua autobiografia, Vita da pornostar, è stata per 6 mesi nella classifica dei libri più venduti. Lei è l'emblema dell'industria del porno. Times Square, fine anni 70. Il gruppo Donne contro la pornografia si aggirava in quello che ancora era un ghetto a luci rosse per smuovere l'opinione pubblica. La piazza rimase a lungo famosa come la piazza dei picchetti femministi. Cosa è successo in questi 30 anni? Oggi ci occuperemo della pornificazione della cultura a partire da un libro pubblicato nel 2005 e tradotto in Italia nel 2006. Il titolo è Sporche femmine sciovinste, le donne e l'irresistibile ascesa della Raunch Culture, Castelvecchi Editore. Raunch Culture alla lettera vuol dire cultura trasgressiva, aggressiva, esibizionista. Non sono così ingenuo da pensare che nei mitici anni 70 non ci fosse la mercificazione del corpo femminile. Non avrebbero sfilato le femministe a Times Square. Non peccherò di ingenuità dicendo che l'uso del corpo della donna è cosa attuale. E non vorrei certo passare per bacchettona affermando che prima era meglio perché non si assisteva a tutta questa carne in bella mostra, sapendo in realtà che quotidianamente e sistematicamente si è sempre speculato sul corpo femminile. Ma l'uso di culi e tette, alla quale si assiste ormai in tutti i settori, sta diventando qualcosa di obbligatorio, di imprescindibile, di irrinunciabile. Ho sempre pensato e penso che la censura sia uno strumento di controllo e di zittimento, ma non nego, e forse mi tiro dietro qualche critica, che oggi se fossi censora sarei implacabile. Mi scaglierei contro Shakira che, da buona femminista, quale lei si definisce, canta e balla all'interno di una gabbia in pose da bambola snodabile, impossibili alle più abili contorsioniste da circo. E che dire di Rihanna, che nel video Te amo si propone con Letizia Castà in versione lesbo vampira sadomasochic, versione poco credibile visto che la prima ha continuato a stare con il tipo che l'ha picchiata svariate volte e la seconda è madre di 3 figli e sposa felice. Eppure queste sono donne di potere. Ho sentito che Lady Gaga e Beyoncé sono tra le donne più ricche. Certo, e questo è inquietante. Queste donne, pur avendo raggiunto fama, successo, soldi, continuano imperterrite a proporsi in versioni porno più o meno soft, strusciandosi addosso alle pareti, abbarbicandosi su pali della luce, sdraiandosi sui cofani delle macchine. Perché questa è l'immagine vincente. Questa è l'immagine che le ha portate alla fama e alla ricchezza. E non riescono, o non vogliono, o non possono uscire da questo ruolo. Ma negli anni 70? Negli anni 70 ci si scagliava contro Grace Jones, Deborah Harry, Jane Birkin e addirittura contro la voce di Donna Summer, quando su di lei non si sapeva ancora chi fosse né come si proponesse, perché già solo la voce risultava essere un po' troppo sexy. In Italia poi Mina venne presa di mira più volte. La sua canzone L'importante è finire al posto de L'importante è venire, oppure nel video di Ancora ancora ancora. Le sue labbra furono considerate eccessivamente scabrose e così si attuò il taglio della bocca. Ma prima l'uso della censura era esagerato. Condivido appieno la tua affermazione. Certamente oggi Donna Summer e compagne sembrerebbero delle monache romite al cospetto di Britney Spears e Christina Aguilera. Ma ciò che risulta incomprensibile non è tanto la censura di ieri, ma questo esagerato, esasperato, accettato e condiviso uso del corpo come arma per arrivare ad un fantomatico potere. Della musica si è sempre detto che è il linguaggio universale. La musica ha sempre creato modelli, idoli, dettato stili, tendenze. Le generazioni più giovani sono le maggiori consumatrici di musica pop. Ed oggi la musica passa esclusivamente attraverso i video. E allora il video e l'immagine femminile che propone diventa universale. Devi essere eccitata ed eccitante, sinuosa ed insinuante, vogliosa e invogliante. Devi essere sempre pronta e calda, veramente calda. We'll be right back. quelle che negli anni 70 erano le cattive ragazze, le streghe, quelle che gridavano nelle piazze contro la mercificazione dei corpi delle donne, oggi sono diventate le monellacce col broncio, le cattivelle in stile Lolita che affollano non solo i media ma talvolta anche le manifestazioni femministe. Nel giro di pochi anni, dice l'autrice, si è passate dal desiderio di cambiare l'immagine del femminile, liberandola dagli orpelli del patriarcato, a quella delle eroine scosciate stile Charlie's Angels anni 2000. Donne che combattono contro il crimine, donne toste che non disdegnano di indossare tutine nere aderenti, pronte a scivolare loro via di dosso quando la situazione si fa dura. Che emerge, secondo l'autrice, è l'identificazione tra libertà e libertà sessuale. La libertà per le donne più o meno giovani oggi significa essere libere di sentirsi a proprio agio nel ruolo di oggetti di piacere, conquista che ancora gli uomini, poverini, non avrebbero raggiunto. Una libertà che consente alle donne oggi di leggere Playboy, di abbandonare il ruolo di madre e abbracciare l'altrettanto originale ruolo di puttana. La libertà di scegliere tra due stereotipi. Ma di che libertà stiamo parlando? La libertà che consente alle manager rampanti, udite udite, di fare business con corpi attorcigliate di tante belle, bionde, depilatissime, coi tacchi e basta, donne vivaci alla faccia tua. Alla faccia mia? Sì, alla faccia tua. Infatti, Christine Hefner, presidente, direttore, capo della Playboy Enterprise, dice... Parecchie donne leggono la rivista. Lo sappiamo perché ci scrivono. La generazione post-rivoluzione sessuale, post-movimento femminista, cioè quella fatta dagli attuali ventenni e trentenni e che continuerà anche con la prossima generazione, ha un'attitudine più matura, più tranquilla, più naturale verso il sesso e la seduttività. Abbastanza in linea con il modello maschile di un paio di generazioni fa. La testa del coniglietto simboleggia il sesso divertente, un pizzico di ribellione, come un anellino nell'ombelico o i jeans a vita bassa. È una dichiarazione di consapevolezza sessuale. Sto prendendo il controllo del mio aspetto e di quel che significa. Invece del mi imbarazza oppure mi sento a disagio. Un po' come dire alla faccia tua, ma in una maniera divertente, vivace, ecco. Ma è davvero così facile pensare a una donna che inarca la schiena fino quasi a spezzarla, che fa smorfie improbabili, che incitata da un gruppo di bavosi mostra il sedere, come ad un soggetto che ha il controllo sul proprio corpo, sul proprio aspetto? E viene quasi da pensare che sia davvero difficile dire che abbiamo fallito, che ci siamo adeguate ad un modello che non abbiamo scelto e ci siamo convinte di volerlo, forse perché diversamente sarebbe impossibile sopravvivere. Viene da pensare che sia impossibile dirsi. Non abbiamo saputo costruire altro per le nostre figlie, ma preferiamo pensare che siano a loro agio con le tette e la vagina rifatte. We'll be right back. e con le adolescenti le cose non vanno certo meglio. Nel suo libro, Ariel Levy dice: Jessica, una giovane sudcaliforniana che frequenta l'ultimo anno di liceo, ha una pagina personale su LiveJournal che consiste in un mosaico di foto di Paris Hilton con poche righe di commento. Sei una strafica, bionda, super felice e super celebre. Qualcuno ti considererà magari stupida e frivola, ma è tutta invidia. Sei bella, sei famosa e ti sbavano dietro. Cosa puoi volere di più dalla vita? Oltre a Paris Hilton, Jessica ha un altro mito, Pamela Anderson. Mi piace un sacco il loro stile. Anche io ho gli occhi azzurri e mi tingo i capelli di biondo e cerco di non mettere su troppi chili superflui. Aggiunse che la sua compagnia di amici era senz'altro sessualmente attiva e che il sesso orale era molto diffuso. Disse poi che secondo lei non c'è molta differenza tra il sesso orale e la penetrazione, perché tanto sono entrambe pratiche molto casual. Infine concluse: credo che oggi, come oggi, quelli della mia età, tra i 16 e i 17 anni, siano talmente disperati che non gli importa con chi lo fanno, basta che lo fanno. Cioè, mi stai dicendo che oggi i modelli femminili sono quelli delle pornostar e delle spogliarelliste che campeggiano in cima alle classifiche? Per cui anche per le giovani fare sesso è diventato un modo per mettersi in mostra. Ma almeno fare sesso per loro è gratificante. Voglio dire, si aspettano dall'altra parte una sorta di reciprocità, di raggiungere l'orgasmo? No, almeno da quello che Levy riporta nel suo libro. Dice: i tratti comuni di questi avvenimenti di adolescenti sono due: l'esibizionismo e il sesso orale. Sesso orale a vantaggio dei maschi, naturalmente, proprio come nei mitici Rainbow Party, delle orgie a base di fellazio che le ragazze praticano ai ragazzi durante le feste. Queste situazioni prevedono che le ragazze si spendano attivamente in prestazioni sessuali e che i ragazzi se ne stiano letteralmente spaparanzati a godersi i benefici. Molti ragazzi si aspettano di ricevere sesso orale, le ragazze invece mai, altrimenti la gente le considererebbe strane. L'obiettivo, insomma, è quello di apparire raunch, sexy, libidinose, e tutto questo per ricevere attenzione da parte dei ragazzi e magari beccarsi pure qualche sospensione a scuola per comportamento immorale e diventare così una star tra i compagni. Insomma, è come dire: se piaci vali qualcosa. Però così non c'è più differenza tra sesso e bisogno d'attenzione. Cioè, se sei giovane e femmina devi dare un messaggio sessuale chiaro, ancora prima di capire cosa sia il sesso e quale valore abbia per te. Ah, voglia! E poi, essere sempre piacenti è sfibrante. Nel suo libro Levy fa giustamente notare come per le ragazze truccarsi e imbellettarsi per piacere agli altri e mai a se stesse sia una fatica immane a cui è sempre più difficile sottrarsi, perché si corre il rischio di rimanere escluse, di non ricevere attenzioni, insomma di non essere nessuno. Ma se le ragazze sono solo corpo, come fanno a distinguere ciò che vogliono da ciò che non vogliono? In pratica diventano manipolabili e conformabili al desiderio altrui. Ricapitoliamo. Le ragazze, come le donne adulte, vengono spinte dal mercato e dai media ad essere sexy, cancellando qualsiasi forma di conoscenza sociale sulla complessità del desiderio sessuale femminile e sul diritto delle donne a conoscerlo e a conoscersi veramente. Aggiungici anche che, come fa notare Levy, oggi, a differenza degli anni 70, il modello della pornostar è l'unico che le ragazze conoscono, per cui non esistono molte alternative. E tutto questo a vantaggio dei maschi e del libero mercato. Infatti, tra creme e impiastri vari, tinte per capelli, borsette leopardate, tanga di Hello Kitty, gonne cortissime, top di Playboy con canottierina coordinata, secondo voi chi ci guadagna? le donne sono soggetto apparente di consumo e oggetto effettivo di consumo. Mi domando se ci sia il solito disegno di controllo dei corpi femminili in tutto questo. Ma che dici? Ma no! A different state, spending every night with a different date. I come into town and have a look around, then I find a guy who wants to get down. I got boys all over the road, I got boys helping me unload. 40 boys in 40 nights, I got no time to see the signs. Sometimes I nibble and sometimes I bite, I kinda sorta wanna get skin tight. Have some now, save some for later, but there's no cute boys in Decatur. L'ondata fast sex sulla scia della McDonaldizzazione del mondo sembra aver travolto anche le lesbiche, secondo Ariel Levy. Il termine lesbica, dice, è diventato quasi un contenitore vuoto e per qualificarsi occorre fornire all'interlocutore una quantità di dettagli specifiche. Ad esempio, sono una femme o sono una butch, oppure, come ultimamente accade sempre più spesso, sono una boy con la i finale. Ricorda un po' quel warming usato in passato da certe femministe. Buttare una Y lì in mezzo a women era un tentativo linguistico ingenuo e maldestro di rovesciare il patriarcato, di collegare il genere femminile a qualcosa di indipendente, autonomo e del tutto rivoluzionario. Ma essere boy è un'altra cosa. Non ha niente a che vedere con l'onnipotenza, la sorellanza e le tisane. E molto a che vedere col voler essere giovani, ganze, sex positive, un po' mascoline e pronte a darci dentro. Le boy sono giocose, giovani, libere. Ora le lesbiche si sentono libere di portarsi una ragazza a casa e farti una botta e via, come fanno i ragazzi gay, come dice Dottie. San Francisco è un posto pensato per le biciclette e le lesbiche. Entrambe riempiono le strade come se fossero le padrone della città, come se tutto fosse stato costruito solo per loro. Le auto e gli etero sono benevolmente tollerati. Nella zona attorno a Dolores Park ci sono lesbiche in posa con cappellino da baseball, altre con l'anello al naso, con i bambini, con le Subaru, con la moto, coi soldi. Per dirla con le parole di una di loro, puoi anche essere rosa a pallini viola, se sei gay, San Francisco, trovi la tua collocazione. Le donne americane etero e gay sono, secondo Ariel Levy, molto simili nel modo in cui si percepiscono il proprio corpo, il sesso e le altre donne. Dice infatti: investono tempo, denaro e a volte tutte se stesse per essere come un uomo, spesso nel vero senso della parola, come nel caso della F2M. C'è un condiviso disprezzo per le sciacquette, le puntane, le troie, parimenti appiattite sullo stesso stereotipo di donna femminile, specie se si spogliano e ballano sui tavoli. La chirurgia estetica, protesi mammaria per le donne eterosessuali, mastectomia per le F2M, è diventata tanto diffusa da trasformarsi in una moda. Il sesso senza legami è largamente praticato e spesso allestito come vero e proprio spettacolo. Il gruppo di studenti che agitano i pugni in aria davanti alle spogliarelliste del cake a New York, una ragazzina ubriaca che mostra le tette a Miami ipnotizzata dal richiamo di Girls Go Wild, una stanza piena di lesbiche che se la spassano con una ballerina che scuote un finto pene al Fairy Butch di San Francisco. Non c'entra con l'essere lesbica, c'entra con l'essere donna, o ragazzina, se preferite. She says I'm crazy, I said oh really, I'm gonna jump on you on the bed, make me a monkey, make me fall over, make me a cradle, hold me instead, I'm not gonna say it, okay. To come over, can I sing to you good night? I just want pleasure, I just want heaven, I just want you tonight, tonight. Sporche femmine sciuviniste ricorre spesso la parola mercificazione. È vero, analizzando Sex and the City, la Levi parla di donne consumatrici, riferendosi all'esagerata smania di shopping delle protagoniste. Il possesso diventa l'atto supremo di indipendenza e il consumo compulsivo rappresenta la nuova libertà. In una scena, Carrie, una delle protagoniste del film, veleggia per la città con le buste degli acquisti appese al braccio, un preservativo nella borsetta e un piccolo coniglietto di Playboy appeso al collo. Allo stesso modo si parla di donne come merce da consumare, come corpo da dare indiscriminatamente. L'uomo è il soggetto che pensa, sente, valuta la donna. Donna che non sente, ma spera di aver interpretato bene il ruolo che la società le impone. Ecco la libertà delle donne di oggi. Sì, questo nella Ranch Culture è considerato il nuovo potere delle donne. La liberazione avviene nell'interpretare i desideri degli uomini, conquistarli, essere attraenti, sexy e disinibite. Ma questo è solo un conformarsi al sistema, non ribellarsi ad esso. Si svende il proprio corpo, spogliandosi e mercificandosi, quando la società intorno a noi si aspetta che lo facciamo. Secondo Levi, infatti, non è cambiato nulla. In un passo del libro dice: Ci è stato fatto credere che questo bombardamento di stereotipi semplicistici e fasulli sulla sessualità femminile sia una dimostrazione della libertà sessuale e del potere delle donne nella cultura di oggi. E noi ci siamo cascate. Pensiamoci bene. Prima le donne erano mogli, madri o prostitute. Cosa è cambiato? Gli stereotipi sono gli stessi. La prostituzione è un tempo tabù. Ora è un passaggio necessario. Faye Watleton ha dichiarato: sognare di essere una pornostar è la fantasia per eccellenza. La domanda è: per quale motivo una persona che fa sesso per lavoro dovrebbe incarnare le mie fantasie erotiche? Le pornostar fanno sesso per profitto, non per piacere. E la società vuole questo: rendere il sesso una merce, ampliarne il redditizio mercato e continuare a tenere le donne in uno stato d'oppressione facendo credere loro di essere libere. La dottoressa Melissa Farley, psicologa e ricercatrice del Kaiser Permanent Medical Center di San Francisco, attesta che tra il 65 e il 90% delle lavoratrici dell'industria del sesso ha subito abusi sessuali infantili. Sempre la Farley ha condotto nel 98 uno studio dal titolo «Prostituzione in 5 paesi, la violenza e i disturbi da stress post-traumatico», dal quale si evince che 2/3 delle donne intervistate soffrono di disturbi da stress post-traumatico, con sintomi quali catatonia emotiva, incubi ricorrenti ed episodi drammatici del passato rivissuti improvvisamente. Questi sintomi erano assai più gravi tra le prostitute che tra i reduci del Vietnam. La Levi dunque si chiede se non ci sia qualcosa di perverso nel prendere a modello sessuale una categoria di persone che sono state sessualmente abusate e che hanno disturbi post-traumatici da stress proprio a causa della mercificazione del loro corpo. Erika Young in un'intervista dice: la liberazione delle donne non è cercare di avere un orgasmo con un uomo che non ami o guardare Sex and the City, ma mettere le donne in posizioni decisive all'interno della società. E non si parla certo di posizioni sessuali, ovviamente. Continuando dice: la libertà sessuale può essere un paravento per camuffare la poca strada che abbiamo fatto. Poca strada. O forse Stiamo percorrendo a ritroso gli ultimi 40 anni. In conclusione, la Levi fa una riflessione importante. Il femminismo è stato inglobato dal sistema, privato degli ideali che ne erano alla base, e tramutato in cultura pop. E questo è stato il modo più semplice per neutralizzarlo. Liberazione e potere alle donne sono slogan femministi coniati per sbarazzarci dai limiti imposti ed esigere pari diritti. Oggi ne abbiamo falsato il significato. La libertà di essere provocanti o promiscue non è la libertà a cui aspirava il femminismo, e neppure la prima questione femminile all'ordine del giorno. Se davvero ci considerassimo sexy, divertenti, abili e intelligenti, non avremmo bisogno di venderci come spogliarelliste o come uomini, né come nient'altro che noi stesse. Non sarà facile, ma non sarà neanche più difficile delle contorsioni a cui si sottopongono continuamente le sciovinistesse per dimostrare qualcosa a se stesse. E soprattutto, la ricompensa sarà proprio ciò che loro vogliono così ardentemente e che tutte le donne meritano: libertà e potere. Allora, le connettive vi ringraziano per l'ascolto, siamo ritornate naturalmente, quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento martedì prossimo, ci saranno le compagne del CLR, invece il 12 ci saremo nuovamente noi. Approfittiamo anche, chi volesse partecipare alla serata del Casbilè, venerdì prossimo al Centro Femminista Separatista. Le connettive vi salutano caldamente. Ciao, ciao, ciao.